Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette minuti, inizia la prima puntata di Focus Economia della settimana. E allora i temi di questa giornata economico-finanziaria. Beh, ci risiamo, borse in netto calo, Milano meno 2,3%, euro in calo rispetto al dollaro, anche se a costo di risultare noiosi. Ripetiamo che un euro a quota 1,31 non è da considerarsi debole sul dollaro, è sicuramente in calo se pensiamo che due settimane fa era a quota 1,40, dicevo, borse in sofferenza, non solo l'Europa, anche se i timori sono tutti sull'Europa. Milano, dicevamo, perde il 2,20, Parigi perde l'1,90, Francoforte l'1,80, Londra l'1,40, l'America l'1,1%. Milano quindi tra le peggiori. Attenzione, prima di passare a considerazioni troppo facili, Milano perde tanto perché le banche pesano molto sul nostro indice. Certo, oggi, se la buona notizia arriva dall'asta sui nostri BTP, buona la domanda, il rendimento però è salito sopra il 4% a livello lordo, i BTP decennali con scadenza 1 marzo 2020, 4,43%, mezzo punto percentuale in più, e questa non è una bella cosa, vuol dire che l'Italia, per trovare sottoscrittori sul suo debito, quando si fa un'asta, funziona come un'asta, deve offrire tassi di interesse un po' più alti, e sappiamo che più alto il tasso di interesse, più è considerato a rischio il debito di un paese e più ci costa, perché noi poi sul debito paghiamo circa 70 miliardi ogni anno di euro, per interessi sul debito. È come se una famiglia, solo per gli interessi sul debito che ha contratto con una banca, pagasse una cifra che è appunto in questo caso di 70 miliardi, noi abbiamo da soli un terzo di tutto il debito europeo. Tra l'altro, su questo vale la pena ricordare che se la buona notizia è che l'asta comunque è andata bene, non ci sono stati problemi sulla domanda, la domanda è stata pari a 9 milioni di euro su 7 milioni di euro offerti, lo spread, ossia la differenza tra quanto deve pagare l'Italia agli investitori per farsi comprare il debito e quanto deve pagare la Germania, continua a aumentare, siamo a 200 punti, il 2% è il record dall'introduzione dell'euro. E allora, visto che fa freddo, lunedì è iniziato così, partiamo subito in maniera scaramantica con il gufo infreddolito. E allora, dopo il grido di battaglia del gufo, andiamo con le altre notizie. Dicevamo, record in quello che rende un BTP italiano a 10 anni rispetto all'equivalente tedesco, e gli operatori dicono, attenzione, insomma, sul mercato del debito europeo, dove la tensione resta acuta, stamani sono state fatte circolare voci di un risultato negativo sull'asta dei BTP, che così non è, quindi voci false, e il tentativo comunque di creare tensioni, di mettere sotto pressione il debito italiano, che è il big fish, rispetto il pesce grosso rispetto a Irlanda, Grecia, Portogallo e forse anche rispetto alla Spagna, c'è. Di questo ci occuperemo alle 18:10, daremo tutto l'approfondimento dalle 18 in poi a questo tema. Intanto è volato a record anche il rischio misurato sulla Spagna e sul Portogallo. Il rischio si misura sui premi, su quanto si paga un premio per una polizza assicurativa per assicurarsi contro il rischio fallimento. Il premio è salito al massimo, 542 punti quello sul Portogallo, 336 punti quello sulla Spagna. Torna a risalire anche il rischio sul debito dell'Irlanda. Di Irlanda parleremo, perché comunque va detto che il meccanismo europeo ha funzionato questa volta, devo dire anche in maniera abbastanza rapida, senza tutto quel ping pong e botta risposta che aveva accompagnato la crisi greca a maggio, aprile-maggio. In questo caso si è arrivati nell'arco di due settimane alla definizione, come vedrete sui giornali, di un fondo, molti l'hanno chiamato fondo monetario europeo da 85 miliardi. Su questo sentiamo il ministro Giulio Tremonti, è di ieri chiaramente, come commento alla risposta che ha dato l'Unione Europea ai mercati. Di solito lo Stato è più forte del mercato, ma qui in Europa le cose sono un po' diverse, perché il mercato è unito anche nella logica della speculazione e l'Europa è ancora troppo divisa nella logica delle singole nazioni. Oggi siamo qui e abbiamo lavorato in Europa, con l'Europa, per l'Europa, per farla un po' più unita contro la speculazione. Il lavoro che abbiamo fatto viene da lontano, tanti giorni fa, abbiamo lavorato a tutti i livelli e il testo di oggi, vediamo come va lunedì e ci rivediamo lunedì prossimo ancora qui a Bruxelles. Aveva detto vediamo come va lunedì, oggi è lunedì e non sta andando bene, però insomma meno male che c'è stata la risposta dell'Europa e le garanzie sull'Irlanda. Certo che è un gioco a rimpiattino, prima si attacca la Grecia, poi l'Irlanda, poi forse il Portogallo e la Spagna, vedremo. Ma ricordo l'interpretazione che ci ha dato l'economista Luigi Zingales venerdì scorso: attenzione, gli speculatori non sono la causa del male, sono chi se ne approfitta. Li ha paragonati alle iene, non ai lupi. Intervengono quando c'è già un debito in difficoltà, un debito un po', diciamo, come animale ferito, come carcassa. Andiamo avanti. Per quello che riguarda il prezzo del petrolio, in rialzo $84,2 il barile. Adesso tenetevi forte, perché la benzina, o meglio il diesel, ha superato 1,3 euro e al massimo da 2 anni. Che il gasolio torna a 1,3 euro. Io non ho visto questi rialzi, cioè secondo me il petrolio, quello che vediamo, continua a viaggiare tra 80, 78, 84. Ma il mitico, molte volte ospite a Focus Economia, presidente dell'Unione Petrolifera Italiana, Pasquale De Vita, ha detto: i nostri prezzi sono allineati con l'Europa, è sostanzialmente allineato a quello europeo. Non avevamo dubbi. La penso in maniera un po' diversa i consumatori, che dicono: no, dal 2001 ad adesso il diesel ha fatto più 40%, mentre la benzina ha fatto più 34%. Anche qui i misteri del mercato delle commodity: perché il diesel aumenta più della benzina? Forse perché qualcuno sarà spostato sul diesel? E non scrivete per favore che i prezzi della benzina iniziano a aumentare perché adesso si parte con i ponti dell'8 dicembre e poi i ponti natalizi, perché saranno critiche maliziose che non riceviamo. Una buona notizia arriva dall'indicatore sulla fiducia sull'economia e delle imprese. È in crescita in tutta la zona euro, l'indicatore BCI e ECI. Insomma, io non so, la Germania ha un buon risultato, però non so con questo andamento dei mercati che senso abbiano questi indicatori. Comunque, per dovere di cronaca, li leggiamo. Dati economici sull'andamento dell'Europa. Allora, il PIL europeo nel 2010 all'1,7% e scenderà nel 2011. Questa è questa non ci voleva, diciamo, cioè un 2011 in frenata ancora non era dato così per scontato. Certo, dopo il terzo trimestre fatto dall'Europa era immaginabile che si sarebbe entrati nel 2011 in rallentamento, però insomma il commissario europeo, poi lo sentiremo, ha diffuso oggi le nuove previsioni economiche di Bruxelles e ha detto: attenzione, c'è una ripresa nell'area euro, ma è diseguale tra paese e paese e resterà comunque sotto il 2% nei prossimi 3 anni. Crescita moderata per l'Italia, più 1,1% nel 2010 e anche nel 2011. Ricordo che le stime del governo indicano un più 1,2 quest'anno, 1,3 l'anno prossimo e il 2% nel 2012. A questo punto il 2% sembra un po' ottimistico. L'Italia, il deficit scenderà leggermente al 5% nel 2010, per poi calare al 4,3% nel 2011, lo dice sempre la Commissione Europea, e poi al 3,5% nel 2012. Le stime del governo sono più ottimistiche, 5% quest'anno per tutti e due, però il governo prevede il 3,9% l'anno prossimo e il 2,7% nel 2012. E anche sul debito, quest'anno fa 118,9% del PIL, l'anno prossimo farà 120% del PIL, 2011 farà 120%, secondo la Commissione Europea. Il governo invece prevede che nel 2012 sia il 117%. Allora, abbiamo parlato di retribuzione la settimana scorsa, dei dirigenti, ma anche dei quadri, degli operai. Insomma, le retribuzioni contrattuali orarie a ottobre hanno registrato una variazione nulla, cioè zero, su settembre, più 1,5% rispetto a ottobre del 2009. È il livello più basso anno su anno dal 1999 e comunque sotto il livello dell'inflazione. Questo se lo fichino in testa comunque anche i politici, perché vuol dire che sulle retribuzioni c'è poco da spremere se lavorano, se viaggiano sotto i livelli dell'inflazione, se sono cresciute ai minimi dal 1999. Parleremo anche di Fiat, oggi Sergio Marchionne, il numero uno, è rimasto tutta la mattina a Milano a Piazza Affari a incontrare gli analisti, gli investitori finanziari, confermato per Fiat Industrial, come si chiama adesso, l'obiettivo dai 19 miliardi adesso ai 29 miliardi nel 2014 e l'indebitamento per il settore auto tra 1,6 e 2 miliardi. Allora, vorrei, vista la giornatina bella bella, non abbiamo dato i titoli, diamo allora rapidamente anche i titoli. Fondiera Assai continua a essere tra i peggiori e non si placano le tensioni sul gruppo della famiglia Ligresti, meno 5,28%, Banca Popolare meno 4,1% come UbiBank, il 3,70% lo perde in pregilo, Mediaset meno 3,6% come Italcementi, il 3,4% lo perde in Intesa San Paolo, il 3,2% Generali, il 3% sia Pirelli che Exor che Prismian. Fronte opposto, Mediolanum più 1,5%, Autogrill più 0,90%, Estimac Electronics invariata, Finmeccanica meno 0,45%. Di borsa parleremo tra poco. Vorrei aprire questa prima puntata però con un tema che riguarda anche il caso che abbiamo seguito moltissimo di Napoli e dei rifiuti, e cioè l'importanza delle regole in economia. Lo dico perché la persona che stiamo per avere ospite ha suggerito che anche per il settore rifiuti ci voglia un'autority di vigilanza come per altri settori. Mi riferisco a Roger Abravanel, che è il direttore emerito della McKinsey, dove è stato senior director fino al 2006, e ha scritto un nuovo libro, portando in studio il suo libro Meritocrazia. L'ultimo libro si chiama Regole, e allora parliamone proprio con lui. Le regole per il paese, le regole per lo sviluppo economico, uno potrebbe dire. Il libro si chiama Regole, lo ha scritto un autore che ha passato la sua vita in McKinsey, dove è arrivato a fare il senior director fino al 2006, ed è un autore che già portammo in trasmissione per un libro di cui molto si discusse. Il libro si chiamava Meritocrazia. La casa editrice Garzanti, il libro appunto si chiama Regole, l'autore è Roger Abravanel. Buonasera. Buonasera. Allora, parlare di regole in questo paese sembra quasi delle volte un'operazione, una fatica di Sisifo. Partiamo da una prima idea. Spesso noi stessi, molte volte l'abbiamo ricordato, si dice questo è un paese in cui non è che manchino le regole, ce ne sono troppe. Anzi, se parliamo poi del clima economico, l'eccesso di regole che c'è, chiamasi eccesso di norme burocratiche, chiamasi eccesso di adempimenti, ha un costo per le imprese, ha un costo stimato in decine di miliardi all'anno. Si potrebbero riformare queste regole, ridurre queste norme e questi adempimenti a costo zero, e quindi in sostanza il paese ha un eccesso di regole che rappresenta un freno, un blocco, una pietra allo sviluppo economico. È d'accordo? Intanto ho un coautore che si chiama Luca Daniele. Volentieri, salutiamo anche lui. Allora, troppe regole, ma anche troppo poche, perché durante la crisi si è sentito dire che la crisi della finanza era dovuta a troppo poche regole, alla deregulation. Quindi troppe o troppo poche? Tutte e due. Fondamentalmente abbiamo poche regole giuste. Allora, il problema è che siamo strangolati in un circolo vizioso in cui ci sono tante regole sbagliate, non vengono rispettate, se ne fanno delle altre per farle rispettare, a questo punto vengono evase da tutti, non si possono mettere in galera 4 milioni di imprenditori o di imprese o di italiani, a questo punto le regole non interessano più a nessuno. Questa roba blocca l'economia, soprattutto l'economia dei servizi, prima di tutto perché non nascono le regole che fanno incentivare la crescita, anzi sono le regole che bloccano la crescita, pensate all'articolo 18, no? E secondo perché le regole non vengono rispettate da nessuno e a questo punto non nasceranno mai quelle regole giuste che sono sempre state il motore dell'economia. Però fin qui a Bravanel siamo a un'analisi corretta, ma che spesso abbiamo già ricordato. Ci sono troppe regole e non applicate, servirebbero meno regole, più pragmatiche e soprattutto con più verifiche. E non mi riferisco solo all'evasione fiscale, ma in generale, meno adempimenti burocratici da sanzionare duramente però chi non le rispetta. Non è solo una questione di meno adempiere, non è solo una questione di burocrazia, è una questione di avere le regole giuste. Fondamentalmente noi abbiamo stimato nel nostro libro che noi perdiamo da 3 a 4 milioni di posti di lavoro che non nascono nel commercio perché abbiamo le regole sbagliate nel commercio, perché fondamentalmente non avendo gli orari d'apertura lunghe non si riescono ad occupare abbastanza persone. L'abbiamo le regole sbagliate nel turismo perché fondamentalmente non nascono i grandi progetti del turismo. Abbiamo l'impossibilità nei grandi aziende di servizio di crescere perché tutte le regole favoriscono le piccole aziende che noi abbiamo chiamato bruttissime, brutte e bruttissime. Perché sono brutte e bruttissime? Perché fondamentalmente rimanendo piccole sono inefficienti, non assumono giovani di talento e fanno una concorrenza sleale a quelle che sono più grandi. Quindi commercio, turismo, professione, utility, servizi locali fa il 60-70% del PIL. In questa area, solo in quest'area, possiamo creare da 3 a 4 milioni di posti di lavoro. Sul tema delle troppe delle regole, poche regole buone, insomma, le regole giuste, a me viene in mente uno che le aveva le regole giuste, si chiamava Mosè. Ora, io non so a quali tavole della legge lei faccia riferimento per arrivare alle regole giuste. Più che altro, diciamo, regole efficaci già mi basterebbe. Però, sul tema che lei ricordava dei posti di lavoro persi, in realtà qui si scontra con un'altra visione che dice levate, adesso non voglio essere il rappresentante italiano dei Tea Parties americani, però levate le regole, levate, date poche regole che devono servire come diciamo così cornice e lasciate libere poi in questo caso le imprese manifatturiere di servizi di competere sul mercato anche sulle professioni. Noi spesso abbiamo notato come ci siano troppe regole sull'accesso alle professioni, gli ordini professionali, le tariffe minime, per cui l'esigenza sembra essere quella di, anche nel mondo dei servizi, di minori regole, di maggiore libertà d'accesso. Questo delle minori regole è veramente un grossissimo mito. Negli ultimi 40 anni l'economia si è trasformata, è diventata un'economia di servizi. Nei servizi ci vogliono più regole che nell'attività industriale. Le faccio un esempio. Noi abbiamo liberalizzato l'energia elettrica, giusto? Dopo la liberalizzazione dell'energia elettrica, le regole sono aumentate in un modo enorme. Regole che definiscono le tariffe, regole che hanno definito come si fa l'offerta sulla borsa elettrica, decine, centinaia di regole. Le faccio un altro esempio. Un'automobile, fondamentalmente, se uno è protetto, perché se la Toyota non è sicura, può comprarsi una Fiat o viceversa. Se uno prende un viaggio organizzato, uno si accorge che gli hanno fatto un bidone soltanto quando è arrivato a Sharm el Sheikh. Quindi nei servizi ci sono quantità di regole enormi, regole, leggi, norme. Io le posso dire, noi per esempio, i nostri libri di scuola costano più di tutti gli altri paesi perché abbiamo le regole sbagliate. Perché? Perché disincentivano la possibilità di avere libri usati, che costano meno. E poi il fatto che le regole non vengono rispettate aumenta incredibilmente i costi e diminuisce la produzione. Allora, partiamo da un primo punto. Ci sono troppe regole e sbagliate. Non è che manchino le regole in questo paese. Se vuole che vi dico che ce ne sono troppe, sicuramente, a parte che io non sono neanche sicuro che ce ne siano troppe, perché uno va a analizzare e dice devo semplificare, sono sbagliate. E il problema di fondo è che non tengono conto di quello che è l'essenza dell'obiettivo delle regole, che è quello di migliorare la produttività. Altra obiezione che viene mossa però in questo caso è, va bene, diciamo che ci sono le regole sbagliate, non sappiamo ancora se tante o troppe o poche, ma sbagliate perché difficilmente applicabili, hanno dei costi per il sistema altissimi, non portano efficienza e spesso vengono anche non rispettate. La colpa però è della classe politica, non sto dicendo il governo, parliamo del Parlamento in senso lato, cioè chi deve riformare le regole o anche la classe politica a livello locale quando le regole appartengono dall'amministrazione locale. Viene chiamata in causa la responsabilità di una classe dirigente che aggiunge regole a regole senza mai andare a sfoltire quella che è la foresta burocratica. Le ripeto, in tutti i paesi dove nascono le regole giuste, le regole vengono rispettate anche se sono sbagliate. Perché poi cosa? Vengono modificate dalla tutta la società civile. Da noi le regole non vengono rispettate. Quindi con questa colossale evasione non potranno mai nascere le regole giuste. Questa è la ragione. Dopo io potrei farle decine di esempi. L'industria farmaceutica. Noi non abbiamo un'industria farmaceutica. Perché? Perché in passato avevamo una grande difficoltà a proteggere la proprietà intellettuale attraverso le regole giuste. Facciamo un altro esempio un po' difficile da accettare. Le pompe funebri. È stata fatta una stima che l'evasione fiscale è tale che al nord un italiano su due si seppellisce da solo e al sud due su tre. Cosa succede? Che a parte costi... che è anche difficile seppellirsi da solo. No, però voglio dire, perché certo, evidentemente questa l'evasione fa sì che non ci sono non ci sono tutte le cose. Fondamentalmente, de facto, questo fa sì che il costo è molto più alto, il servizio è pessimo e non nascono le grandi imprese. In Francia esiste una grande azienda che si chiama Le Pompes Funèbres, che fattura 600 milioni di euro e che dà un servizio impeccabile, costi bassi, eccetera. So che è un po' macabro come esempio, però l'ho dato un esempio. Non rispettare le regole fondamentalmente è l'essenza del non far nascere le regole giuste. Restiamo sulle responsabilità. Lei dice, da noi c'è un patto perverso, se ho ben capito il suo ragionamento, per cui la politica non va a riformare le regole anche perché non arriva una spinta dal basso, perché tanto da noi le regole si fanno, ma poi si sa che possono essere in qualche modo non rispettate, evase in senso lato. E non arriva una pressione dei cittadini, perché quando tu invece le regole, anche se sbagliate, le devi rispettare, allora sì che ti batti per fare cambiare la regola. E perché succede questo? Perché l'italiano ha perso la speranza di battersi per le regole. La prima ragione è un problema di fondo di essere preparati a queste battaglie. Quella che viene chiamata l'educazione alle competenze della vita. La capacità di interagire con i propri simili per arrivare alle regole giuste, ma anche per poter lavorare nelle società di servizi. Secondo un'indagine che misura le competenze della vita, l'80% degli italiani sono analfabeti di queste competenze della vita. L'80%, come il Messico, il Nuovo León, contro il 20% in Norvegia. Quindi manca l'educazione civica. La seconda cosa è la giustizia civile. Sentiamo tutti questi grandi dibattiti sulla giustizia penale, ma il problema è la gigantesca giustizia civile. Quindi l'italiano non si impegna neanche per avere giustizia. Fa una piccola azienda, gli dicono non ti pago, fammi causa, 10 anni, e quindi rinuncia, non si impegna. Quindi non c'è una giustizia civile. Terzo, i media. I media in Italia non sono indipendenti, quindi non fanno i watchdogs necessari per educare i cittadini e per spiegargli cosa bisogna fare. Sì. E ultimo, fondamentalmente, abbiamo un gigantesco problema un po' di preparazione da parte in generale della società a vigilare sulle regole. Quindi le regole giuste non le fanno i politici, le fanno i cittadini insieme ai politici. Perché le fanno? Perché sanno che rispettare le regole è un buon affare, non perché l'ha detto Mosè coi 10 comandamenti. Qui ci porterebbe anche troppo in là. È evidente a tutti che il rispetto delle regole magari non sarà conveniente nel brevissimo termine. L'esempio classico è quello del semaforo. Ti può convenire non rispettare il rosso e risparmiare qualche minuto, ma nel momento in cui lo fanno tutti poi resti bloccato nel caos del traffico, e questo vale anche per lo sviluppo economico. Torniamo alle regole. Lei ha detto una cosa importante, la giustizia civile, che ormai viene dato per scontato che non debba funzionare. Tra l'altro in questo libro lei torna a far lavorare, a usare come consulente quel mitico magistrato del Tribunale di Torino, Barbuto, che riuscì a sbrigare, diciamo, tutti i processi arretrati, a dimostrazione che poi anche l'impegno del singolo e l'organizzazione su base, diciamo, imprenditoriale del singolo procuratore capo può servire molto. Barbuto che cosa le ha insegnato? Io ho scoperto Mario Barbuto in meritocrazia, lui è diventato famoso anche successivamente, grazie a lui, non grazie a averlo scoperto, è diventato presidente della Corte d'Appello, e Mario mi ha insegnato una cosa molto semplice, che per ridurre i tempi della giustizia civile italiana, che sono a livello del Gabon, non c'è bisogno di altre leggi, c'è bisogno di organizzazione manageriale. Quindi insieme abbiamo concepito un approccio per come replicare ciò che lui ha fatto a Torino in tutta l'Italia, ed è questa una delle 5 proposte. Su questo c'è qualcosa che però non mi convince del tutto, a Bravanelle. Mi riferisco a quando lei dice, vabbè, sulla giustizia civile c'è poco da discutere, e la responsabilità anche qui è della società, dei singoli magistrati, oltre che della classe politica. Lei però sulle piccole imprese vedo molti messaggi di contestazione. Chiariamo il tema. Quando lei dice che insomma il piccolo è brutto, perché uno dice piccolo non sarà bello, forse non sarà neanche brutto, a me sembra che nano, col tutto rispetto, sia brutto, non piccolo, perché se tu sei piccolo e ti mantieni, hai una buona solidità patrimoniale, riesci comunque ad avere quota di mercato, perché è brutto? Abbiamo avuto casi di grandi imprese che sono saltate. Io sono un investitore, ho creato 10 piccole aziende, credo moltissimo nelle piccole aziende che però vogliono crescere. Quello che io definisco brutto sono quelle piccole imprese che rimangono nel sommerso e nell'illegalità, facendo concorrenza sleale alle piccole, medie e grandi che invece vogliono crescere grande alla capacità innovativa. Il problema è che noi abbiamo una quantità di piccole imprese di servizio che invece sono nel sommerso, evadono le tasse, fanno il nero e facendo così non permettono invece a quelle altre che le regole le rispettano di crescere perché gli fanno concorrenza sleale. In questo senso sono brutte e bruttissime, ma non il piccolo in generale, più sono queste piccole. Quindi chi diciamo non ha l'ambizione poi di crescere. Va bene, c'è il metodo e la pubblicità, poi vorrei chiudere e passare alla borsa. La borsa ha chiuso già a meno 2,7% sui minimi. Tanto per non farsi mancare nulla, meno 2,2% Parigi, meno 1,90% Francoforte. Dicevo, vorrei concludere su questa sua proposta di un'authority nei servizi anche per la gestione dei rifiuti, authority nazionale e anche per l'acqua. 349-238-6666 per i vostri sms, meteo e pubblicità prima. ...17:38 di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora vorrei concludere questa intervista con Roger Abravanel e il suo ultimo libro, Regole, dopo un libro che molto successo ha già avuto e si chiamava Meritocrazia. Vedo molti messaggi anche di applauso sulla necessità, insomma, il tratto comune di questo libro, se posso sintetizzare la tesi, è che noi italiani siamo così poco interessati alle regole perché non le rispettiamo, o meglio, se non rispettassimo le regole saremmo anche forse più pronti a spingere per il cambiamento di regole assurde, di un eccesso di regole burocratiche, di regole contraddittorie, ma siccome noi quando le vediamo poi tendiamo a ignorarle, non arriva quella spinta che arriva in altri paesi, perché lì le regole si rispettano e quindi si fa pressione per cambiarle quando sono inefficienti o semplicemente ingiuste. La sua proposta concreta sul settore dei servizi che si chiama acqua da un lato, il tentativo di privatizzare l'acqua, dall'altro però anche rifiuti, visto il disastro napoletano ma non solo, e l'incapacità apparentemente dello Stato, degli enti locali, delle regioni, senza apparentemente, la incapacità e basta di gestire aree importanti del paese. Prima di tutto bisogna dire perché i servizi. In Italia abbiamo una visione dell'economia dell'Ottocento, in base al quale la nostra economia cresce e crea posti di lavoro solo producendo di più ed esportando di più. Purtroppo già noi abbiamo 500.000 di posti di lavoro di più della media europea, grazie alla nostra forte attività manifatturiera. Il nostro problema è che queste attività valgono il 30% dell'economia. Il resto è fatto da servizi, commercio, professioni, banche, turismo, costruzioni, che vengono consumati localmente, non esportati. Ed è lì che abbiamo un ritardo colossale. Le mie prime due proposte sono orientate a sbloccare dei settori vitali dei servizi, i servizi locali e il turismo, facendo nascere le regole giuste. Il concetto è molto semplice. Telecomunicazioni da noi funzionano. Utilità elettrica, l'energia elettrica funziona, le banche, abbiamo dei regolatori centrali. Nei rifiuti noi abbiamo migliaia di regolatori che sono i comuni, e a questo punto fotografia Palermo, Napoli, noi dobbiamo centralizzare la regolazione dei rifiuti. Un'authority per i rifiuti, come c'è anche per l'energia e per le telecomunicazioni. Per le cose. Nel settore del turismo, il nostro turismo è crollato a livello numero 27, la Francia della competitività, la Francia è quarta. Il turismo secchiello e paletta è finito. Ormai Ryanair si porta via i nostri tedeschi dalla Riviera Romagnola e li porta a Sharm el-Sheikh. Questo può essere compensato solo creando grandi progetti, tipo ciò che ha fatto in un certo senso la Gacani in Costa Smeralda, no? Ha preso tanti soggetti, li ha messi insieme in un consorzio, ha creato infrastrutture, aeroporti, ospedali e l'ambiente lo ha rispettato. Bisogna fare cose simili, ovviamente non quel turismo di lusso ma altri tipi, si può fare in Sicilia, e per esempio uno dei miei testimonial che descrivo nel libro è Ivan Lobello, presidente della Confindustria Sicilia, che ha iniziato a fare una cosa simile a Ortigia, esattamente di questo genere. Allora, quindi authority nel settore dei rifiuti, nel settore dell'acqua, perché l'esempio di quello che avviene nell'energia, nel gas, nelle telecomunicazioni, tutto sommato è un esempio positivo di regolamentazione, di invito ai soggetti a non eccedere in situazioni di oligopolio o in alcuni casi monopolio, rispetto alla giungla che c'è adesso tra le varie municipalizzate per il settore rifiuti e il settore idrico, e poi un consorzio, quindi un soggetto privato che rilancia un territorio unendo diverse forze, non lasciando al singolo soggetto alberghiero piuttosto che tour operator il rilancio. Questa è una delle proposte, torneremo a parlarne con Roger Bravanel, autore del libro Regole, che intanto ringraziamo. Grazie. Sì, lo so, vedo molti messaggi al 349-238-6666, ma come, dove vivete? Parlate di regole in questo paese, con questa politica. Ma mica si va con lo zoppo, no? Allora, noi parliamo di quello che servirebbe al paese, se poi il paese lo fa o non lo fa, mica lo decidiamo noi. Parliamo adesso di quello che invece servirebbe ai mercati, o meglio, un po' di fiducia, soprattutto sull'Europa, anche se l'America sta perdendo l'1,26%. E allora, fermo restando che il numero è 349-238-6666 per i vostri sms, la borsa. Allora, Mediolanum un più 1,2, Autogrill più 0,6 sono gli unici due titoli positivi tra quelli a maggiore capitalizzazione. Non va male, vista la giornata, per Parmalat meno 0,3 e ST Microelectronics meno 0,3. L'indice complessivo a Milano perde il 2,7%, è la peggiore Milano, Parigi meno 2,4, Francoforte meno 2,2, Londra meno 1,7, l'America meno 1,3%. La batosta è pesante, di nuovo, su Fondiaria Assai. A questo punto c'è più di un analista che scrive che Fondiaria Assai viene tenuta, tra virgolette, in vita dalle banche, avendo un patrimonio molto molto basso, forse per essere buoni, meno 5,70%, Ubibanca meno 4,6% come il Banco Popolare, meno 4,1% perde Intesa San Paolo, meno 4% fa Impregilo, meno 3,80% Generali e Italcementi, meno 3,5% Unicredito e Mediaset, meno 3,3% Exor e Pirelli e anche Saipem, meno 3,2% Monte dei Paschi, meno 3,1% Unipol, meno 3% Fiat, meno 2,90% Luxottica, meno 2,80% Prismian e Ansaldo STS, ma anche Azimut, meno 2,5% Bulgari e Mediobanca. Chiudiamo con chi perde più del 2%, Tenaris meno 2,2%, l'Automatica meno 2,1%, Enel meno 2,1%, Buzzi Unice meno 2,1%, A2A e Campari perdono il 2%, anche Eni perde l'1,85%, nonostante il prezzo del petrolio sia $84 e i dati sul diesel e i carburanti siano tutti in aumento, cosa che ha fatto arrabbiare i nostri ascoltatori. Guido Maurino, Radio Colli, Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Allora, diciamo, quanto hanno pesato tutti i rialzi degli spread tra obbligazioni tedesche e dei paesi più a rischio, o quanto invece c'è di così dedicato ad alcuni settori, tra cui il bancario? Di sicuro hanno pesato abbastanza, perché comunque consideriamo che questa mattina le borse, dopo il piano di salvataggio dell'Irlanda, avevano aperto, seppur debolmente, in terreno positivo. Nel corso della giornata però l'andamento dell'asta sui titoli di Stato italiani e l'allargarsi degli spread ha influenzato in modo pesante le borse, che hanno iniziato a scendere e dal pomeriggio sono scese in modo più marcato, e per cui insomma questo impatto c'è stato. Consideriamo anche appunto il differenziale dei titoli italiani rispetto al Bund tedesco è salito a 195 punti base, che rappresenta il massimo storico da quando c'è l'euro. Ne hanno pagato le conseguenze soprattutto i titoli finanziari e le banche, che ovviamente sono anche quelli che poi hanno i portafogli pieni di questi titoli italiani, per cui abbiamo visto appunto, citavi prima tu Fondiaria Assai meno 5,71, ma da UBI a Banco Popolare a Intesa San Paolo registriamo comunque perdite superiori al 4%. Se diciamo che su Fondiaria piove sul bagnato, i problemi sono anche interni al gruppo Ligresti, come certo Spesso abbiamo raccontato. Comunque, traffico e poi singoli titoli. Focus Economia. Allora, Guido Maurino, al di là di Fondiaria Assai, insomma, sull'aumento di capitale mi sembra che i timori restino, nonostante l'aumento di capitale i timori restino, a dir poco. Sulle altre banche, insomma, sicuramente ha influito l'aumento dello spread, la differenza tra quanto rende un'obbligazione italiana e un'obbligazione tedesca ai massimi da quando c'è l'euro. Veniamo a qualche notizia un po' più di mercato in senso stretto. Tra l'altro su CareSelf ci sono novità, molti ascoltatori ci chiedono ma che succede al titolo che ha perso il 70% in questi mesi. Tu hai novità? Non ci sono novità particolari, se non che dopo la terza trimestrale pubblicata appunto a metà novembre il titolo ha perso circa il 42%. Vale la pena ricordare che c'era su questa trimestrale anche in qualche modo delle attese, visto che il gruppo aveva sottolineato di aspettarsi un ritorno all'utile che sulla base dei conti del terzo trimestre ovviamente non è più possibile. Ci chiedono anche di Eni, perché con un petrolio in aumento, la benzina e soprattutto il gasolio in record 2 anni, Eni perde? Non ci sono motivi particolari. Una giornata del genere in cui quasi tutti i titoli hanno perso. Cioè si vende in generale sull'Italia? Si vende, esatto, si vende in generale, infatti anche diciamo che di per sé Eni con meno 1,85 ha fatto un punto meglio del listino, se vogliamo vedere il bicchiere mezzo pieno. Adesso mi attendo la domanda al 349-238-6666, ma se tutti vendono chi compra? No, cioè qualcuno che compra c'è e che compra basso e quindi fai calare i titoli. Non facciamo sempre la solita domanda, ma come se tutti vendono chi compra? È ovvio che se qualcuno vende per vendere qualcuno deve comprare, se no non vendi, punto. Cerchi di vendere, ma non vendi. Andiamo avanti sugli spunti, devo dire che gli spunti oggi sono pochi. Beh, la Lazio, forte calo, c'è l'effetto campionato, ma non penso che sia un titolo a parte tifosi molto molto nei portafogli, meno 15,2%, ed è il peggior titolo. France Telecom meno 9,1%, TAS è il miglior titolo, 15% di rialzo, Vivendi più 4,90%, Olidata più 3,80%, Bastoggi più 3,45%, Autogrill che si salva e Prismian. Sì, allora Autogrill oggi si è salvato grazie a un report di Deutsche Bank che ha avviato la copertura sul titolo con una raccomandazione buy e fissando un prezzo molto alto che è 12,5 euro, quindi il 25% in più rispetto alle quotazioni attuali. Diciamo che gli analisti si interrogano un po' sulle prospettive e vedono come Autogrill sia ben posizionata per trarre vantaggio da una possibile crescita del flusso di turisti sia negli Stati Uniti sia in Europa occidentale. Per quello che riguarda invece Prismian, oggi il titolo ha ceduto il 2,78%, si guarda un po' a cosa può succedere nella partita per Draca. I cinesi che hanno presentato la controfferta sulla società olandese oggi hanno lasciato intendere di avere al loro fianco una banca in grado di garantire 1 miliardo di euro necessari per l'offerta e quindi ridando un po' slancio alla loro proposta, mentre adesso sul lato Prismian gli operatori calcolano se possa arrivare un rilancio ulteriore per provare a prendere Draca. Allora, do Fondiaria Assai e ti saluto, do Fondiaria Assai come valore del titolo, ha chiuso a 5,44 euro il titolo su Fondiaria Assai. Prema fin povera do, adesso non la vedo. Ringrazio intanto Guido Maurino e visto che la giornata di quelle tese pesanti con i rendimenti delle obbligazioni in rialzo, i rischi paese in rialzo anche sull'Italia, ne parliamo nella seconda ora del programma. Respiriamo un attimo perché c'è qualcuno che invece in questa giornata può festeggiare un Oscar non cinematografico ma di bilancio. Eh sì, perché è in corso a Milano la premiazione, come ogni anno, degli Oscar di bilancio. L'abbiamo seguita in questi anni, organizzata dalla FERPI, che è la Federazione delle Relazioni Pubbliche Italiane. Allora, 22 finalisti degli 8 Oscar, le 8 categorie, a cui si aggiungono i 3 finalisti del premio speciale per la governance societaria. Siamo in collegamento con il presidente della FERPI, nonché capo della relazione esterna dell'Enel, Gianluca Comin. Buonasera, ciao Gianluca. Buonasera ai telespettatori, ai radioascoltatori. Allora, dici chi vince, non ce lo puoi dire? Guarda, sta cominciando in questi minuti la manifestazione, ovviamente c'è molta attesa, ci sono schierati tutti gli amministratori delle più grandi società italiane, ma anche delle piccole, medie e piccole società quotate e non, che attendono il verdetto della giuria, quindi è difficile anticipare. Quello che posso dire è che anche quest'anno centinaia di imprese, profit e non profit, hanno partecipato mostrando una grandissima attenzione alla comunicazione, alla trasparenza della loro comunicazione, mostrando dei bilanci eccellenti in termini veramente di presentazione di stakeholder. Ecco, ricordo chi ci scrive: l'Oscar di bilancio non si vince per i risultati finanziari, nel senso che non è che si va a premiare chi ha fatto gli utili più grandi, ma il tipo di bilancio preparato. Più volte abbiamo detto, il bilancio è un modo con cui un'azienda analizza anche se stessa, quando si racconta attraverso un bilancio e in qualche modo fa anche autoanalisi. Che caratteristiche hanno avuto i bilanci di quest'anno, visto che ne avete analizzati centinaia? Sono migliorati? C'è più consapevolezza che non si tratta solo di fare una rendicontazione contabile, ma si può anche raccontare obiettivi e presente e anche futuro di un'impresa? Innanzitutto i migliori vanno verso una caratteristica che cominciamo a vedere abbastanza diffusamente anche all'estero, un report. C'è un unico bilancio che contiene, oltre ai risultati civilistici ovviamente obbligatori, anche una grande attenzione all'aspetto della corporate social responsibility, e quindi la responsabilità sociale d'impresa, e alle performance ambientali. Tutto questo insieme offre all'interlocutore, che ovviamente non è solo l'esperto analista finanziario, ma è anche uno stakeholder, un cittadino, un azionista, un cliente, un consumatore, mostra un'azienda che si presenta con una faccia diversa, quindi non solo dei suoi risultati economici, che, come dice giustamente te, non prendiamo in considerazione per il loro risultato annuale, ma in un modo aperto e trasparente, e anche di dialogo verso il loro stakeholder. E questo è un grande successo, soprattutto in un momento di crisi, no? Nel quale la contrazione dei budget spesso va a scapito proprio della comunicazione, vediamo invece una maggiore attenzione alla trasparenza e alla relazione. Questo ci fa piacere, in bocca al lupo a tutti i finalisti, poi tra poco sapremo anche chi l'ha vinto quest'anno. Grazie a Gianluca Comin, in questo caso come presidente della FERPI, quindi Federazione delle Relazioni Pubbliche in Italia, il GR, poi la lunga pagina sulle tensioni sui debiti, i debiti del Portogallo, dell'Irlanda, ma anche oggi, ahimè, il debito italiano. 349-238-6666 per i vostri sms. Focus Economia. Minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per la seconda parte di Focus Economia. Sta parlando Barack Obama e ha appena annunciato in questi istanti misure anticrisi economica molto pesanti, risparmi per 2 miliardi nel 2011 e 60 miliardi in 10 anni, come congelando gli stipendi pubblici. Lo ha comunicato la Casa Bianca. Congelando vuol dire che non verranno fatti più aumenti. Le scelte difficili vanno fatti contro il deficit. Sentiamo un passaggio di Barack Obama in diretta. Scegliere di fare delle scelte difficili, dobbiamo continuare a investire, e io come Presidente devo fare la mia parte. Fin dall'inizio della mia amministrazione abbiamo cercato di eliminare gli sprechi e di ridurre la burocrazia. Cercheremo di cancellare quei programmi che non sono più attuali. Abbiamo proposto circa 20 miliardi di dollari nella riduzione di più di 120 programmi che non sono più attuali. Ho anche stabilito degli obiettivi, la riduzione di 50 miliardi di dollari, 40 miliardi di dollari nel contract, e vendere, alienare 8 miliardi di dollari di proprietà federali. Ho anche proposto un blocco di 3 anni, un congelamento di 3 anni. Misure anticrisi per gli Stati Uniti, tra cui anche... Ecco, questo è il passaggio che abbiamo rubato da Sky in diretta di Obama, appunto blocco per 3 anni degli stipendi dei pubblici dipendenti, cessioni, noi le chiameremo del demanio quando parla di cessioni federali per 8 miliardi di dollari. Questo in una giornata in cui, come lo raccontavamo prima, insomma, di vera passione per i mercati. Allora, Milano ha chiuso con un meno 2,7%, Parigi meno 2,5%, Francoforte meno 2,20, puntuale arrivata l'agenzia che dice bruciati 74 miliardi, i cali più forti a Milano, Parigi e Madrid, perché Madrid ha fatto meno 2,3%, le peggiori della giornata, l'America adesso perde l'1,1%, quindi la matrice è molto europea. Allora parliamo di questo lunedì iniziato in salita per l'Europa. 349-238-6666 per i vostri sms. La notizia più forte, volato a 200 punti al massimo da quando esiste l'euro, la differenza di rendimento tra l'obbligazione tedesca e quella italiana, il cosiddetto spread, lo spread sul Bund. Altro non vuol dire che noi dobbiamo offrire 2 punti percentuali in più per farci finanziare il debito di quanto non debba offrire la Germania. Ora, 1/4 punto percentuale per l'Italia significa sul debito, su tutto il debito, non sulla parte che va in asta e che è andata in asta oggi, però 1/4 punto alla fine su di noi vale circa 3 miliardi su tutto il debito, quindi non sono belle notizie. Ma soprattutto sono ripartiti anche i premi per chi vuole assicurarsi contro il rischio fallimento di Irlanda, Spagna e Portogallo. Spagna 336 punti, Portogallo 540 punti, Irlanda è tornata a 600 punti. Questo nonostante il buon accordo, possiamo dirlo, raggiunto dai paesi europei, la rete di protezione per l'Irlanda, 85 miliardi di euro, l'Irlanda parteciperà direttamente mettendo 17 miliardi e mezzo. Allora, il ministro Tremonti l'abbiamo già fatto sentire nella prima ora del programma, vorrei far ascoltare adesso invece il commento del commissario agli affari economici comunitari Olli Rehn sulle previsioni di crescita europea. Purtroppo rallenta l'area euro nel 2011, quest'anno farà più 1,7%, l'anno prossimo non si andrà oltre l'1,5%, l'Italia non andrà oltre l'1,1%. Sentiamo l'Irene. Lunedì porta notizie migliori rispetto a ieri, domenica, riguardo l'economia reale in Europa, che sta andando meglio rispetto ai mercati finanziari. Il messaggio chiave delle previsioni di oggi è che la ripresa economica in Europa si è consolidata e sono particolarmente incoraggianti le prospettive sulle condizioni del mercato del lavoro, atteso in miglioramento nel prossimo anno. Un altro elemento molto importante è che i disavanzi pubblici stanno iniziando a diminuire grazie alle misure di risanamento adottate e alla ripresa della crescita. Ora è essenziale che continui il consolidamento delle finanze pubbliche ed è fondamentale intensificare le politiche per aumentare la crescita e la creazione di posti di lavoro. La ripresa economica ha dunque ripreso slancio, anche meglio delle attese, ma non è omogenea in tutti gli stati. E poi l'Italia, dicevamo, ripresa più bassa o crescita più bassa delle attese. Per l'Italia più 1,1% nel 2010 e nel 2011, il governo si aspetta un po' di più, più 1,2% quest'anno e più 1,3% l'anno prossimo, ma sono stime vecchie, ormai vanno riviste. Il governo si attende anche un più 2% nel 2012, l'Europa dice no, nel 2012 al massimo arriverete all'1,4%. Concerning Italy, it is... Per quanto riguarda l'Italia, è essenziale che il suo piano di consolidamento dei conti proceda nella giusta direzione, ma se necessario dovranno essere presi ulteriori provvedimenti per raggiungere gli obiettivi intrapresi. Il governo ha adottato un nuovo pacchetto triennale per arrivare a riportare il deficit sotto il 3% entro il 2012. Se sarà necessario, dovranno essere presi ulteriori provvedimenti per conseguire questo obiettivo. Torneremo su questo capitolo quando valuteremo approfonditamente le misure prese dai vari governi. Allora ne sapremo di più. Allora, no, sorrido, non c'è niente da sorridere, ma c'è una critica che che ha fatto sorridere tutti in regia, scrive un ascoltatore: oltre alla pronuncia incomprensibile non c'è padronanza dei numeri di cui si parla, zero capacità di analisi, cambiate il conduttore. Mamma mia, vabbè. Queste le cifre invece diffuse oggi dell'Unione Europea e adesso le commenteremo. Facciamo così, andiamo sul traffico, così si capisce. E poi alcuni di voi ci hanno anche chiesto in questi giorni: potete far riascoltare le previsioni di Tremonti, di Berlusconi un anno fa, un anno e mezzo fa? Le facciamo riascoltare, fermo restando che nella vita si può cambiare idea, quindi non metterei in grande enfasi. C'è stata sicuramente una sottovalutazione iniziale della portata e della lunghezza di questa crisi, forse più il Presidente del Consiglio che il Ministro dell'Economia. Comunque, traffico, e poi vediamo quali rischi reali sull'Italia. 349-238-6666. Focus Economia. Allora, togliamoci questo dente, nel senso che l'ho promesso agli ascoltatori. Alcuni scrivono adesso: è iniziato l'attacco all'Italia. Ma no, insomma, i rendimenti del... Allora, l'asta di oggi sui buoni del tesoro a 10 anni, BTP a 10 anni, è andata bene. 9 milioni di domanda per 7 milioni di euro di offerta. Certo, il rendimento è salito. Vuol dire che l'Italia deve offrire di più per farsi pagare il debito. È salito... ha portato la differenza tra il nostro rendimento di BTP a 10 anni e quello tedesco ai massimi da quando esiste l'euro, e questa non è una buona notizia. Vi do anche i rendimenti: i BTP decennali con scadenza 1 marzo 2021 valgono il 4,43%, anche i BTP a 3 anni sono cresciuti come rendimento, il 2,86%, 55 centesimi in più. E poi CCT più anche qui mezzo euro in più, mezzo punto percentuale in più, più al 2,3% di rendimento. Però vorrei, prima di far ascoltare Berlusconi e Tremonti di un anno e mezzo fa, commentare questi dati con l'economista nonché editorialista del Corriere della Sera, Alberto Quadrio Curzio, che è preside della Facoltà di Scienze Politiche all'Università Cattolica di Milano. Buonasera, professore. Buonasera. La chiamo, so che il collegamento potrebbe saltare, quindi vado veloce. Lei oggi scrive su Corriere della Sera: attenzione su questo, le tensioni le abbiamo viste anche oggi sugli spread, ma insomma possiamo dare una buona notizia: il salvataggio dell'Irlanda, sia per entità, per tempi e per consenso, è stato un dato positivo, soprattutto rispetto a quello greco. Non ci hanno messo un mese, hanno litigato molto poco e in un paio di settimane è arrivata una rete di protezione da 85 miliardi. Certamente è un dato positivo, e semmai quel minimo di ritardo è dovuto all'Irlanda e non è dovuto all'Unione Europea, ovvero all'Eurogruppo, che ha ben operato e lo ha fatto tempestivamente. Dunque questo è acquisito, vuol dire che lo European Financial Stability Facility funziona e può funzionare ancora meglio laddove fosse necessario in futuro, le risorse ci sono e quindi il risultato è certamente un risultato apprezzabile. Allora, altra cosa è dire, cioè, bene si sono mossi i paesi europei per l'Irlanda, e lei ha ragione a ricordare che l'Irlanda, come spesso avviene, c'è un po' di nazionalismo prima di chiedere aiuto, l'orgoglio, no? Ci ha messo un po', tra l'altro di questi 85 miliardi 17 li metterà l'Irlanda stessa. Altra cosa, professor Quadrio Curzio, lei è un esperto di conti pubblici e di macroeconomia, altra cosa è dire vabbè, il peggio è passato, perché qua, voglio dire, gli spread aumentano, quindi i rendimenti dei debiti italiani, spagnoli, irlandesi e portoghesi, anche i CDS, quindi i premi per assicurarsi contro il rischio fallimento. Allora, voglio dire, dove potremmo arrivare? A me l'unico paragone che viene in mente, e qua mi auguro che non tutti guidino con una mano sola in maniera scaramantica, è il 1992, quando la lira fu cacciata dallo SME. Lì ci fu una situazione di grandissima tensione, non si riusciva a cambiare la lira per alcune ore, però si risolse senza, diciamo, drammi totali, con un aumento del prelievo, questo è indubbio. Certo. Ma guardi, io non credo che l'Italia arriverà a questo punto. Il piccolo allargamento degli spread, poi non tanto piccolo, che si è verificato oggi, è grosso, infatti, è dovuto a una situazione, a mio avviso, innescata da improvvide dichiarazioni e forse anche da improvvidi comunicati circa ciò che accadrà dopo il 2013. Prefigurare che dopo il 2013 ci potrebbe essere una parte di debiti sovrani che potrebbe essere in qualche modo ridiscussa sulle scadenze, sui tassi, eccetera, io credo davvero inopportuno, perché 2013 è lontano. Se ciò accadrà, si vedrà come e in quale modalità. E poi paesi come l'Italia o la Spagna, che hanno delle capacità formidabili di autodifesa, anche perché hanno una notevolissima ricchezza interna, anche ricchezza non finanziaria, alla quale intendo dire ricchezza privata interna, alla quale in caso di necessità ed urgenza si può anche attingere, ebbene io credo che tutto ciò non vada fatto, cioè non si debbano lanciare delle avvertimenti o delle comunicazioni che innescano operazioni speculative che cercano di prendersi margini qua e là. Quindi io non sono preoccupato, però siamo dentro una situazione di oscillazioni, di onde alte, anche se la barca, a mio avviso, è una barca solida. Allora, sì, io a chi fa previsioni sui debiti di Italia e Spagna nel 2013, allora a questo punto riportiamo l'astrologa venerdì, ve lo dico visto che la chiedete, perché se questo è il modo di fare economia, molto meglio sapere come si muovono gli astri, professore, non inorridisca. No, ma io sono serissimo, per cui cioè, a quel punto l'astrologia ha più fondamento, quantomeno tanti anni che la studiano. Una cosa, seconda cosa, nel caso peggiore, perché qui ragioniamo sul 2010-2011, poi nel 2012 dovrebbe finire il mondo, quindi tutti tranquilli che il debito sovrano sarà un problema irrilevante di fronte alla fine del mondo, ma che misure straordinarie potrebbero essere prese? Voglio dire, nel 1992 si arrivò di fatto a una patrimoniale che, tra l'altro, lo dico senza far tremare nessuno, lavora per fasce di reddito, è meno iniqua ed è più efficace dell'aumento della tassazione IRPEF, perché va a colpire i patrimoni e quindi anche l'evasione. Su. E insomma, una patrimoniale secca, questo potrebbe mettere, cioè, nella peggiore delle ipotesi, di questo stiamo ragionando, nella peggiore delle ipotesi. Ma guardi, nella peggiore delle ipotesi, ipotesi estrema, e tuttavia se gli analisti finanziari guardassero i numeri si renderebbero conto come l'Italia, posta nell'angolo, può benissimo cavarsela. Le fornisco un dato: il rapporto tra il debito nazionale italiano e la ricchezza, il debito pubblico italiano e la ricchezza finanziaria reale delle famiglie italiane è 2,5, cioè la ricchezza finanziaria reale delle famiglie italiane è 2,5 volte il debito pubblico. Allora mi sembra che sia una copertura adeguata. Se poi vogliamo prendere solamente la ricchezza finanziaria netta delle famiglie italiane, ebbene il debito pubblico è il 65% della ricchezza finanziaria netta delle famiglie italiane. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che se l'Italia fosse messa nell'angolo, presto a ricomperarsi un po' di debito pubblico attraverso una forma di tassazione una tantum che nei casi di emergenza potrebbe essere adottata. Sì, e stiamo parlando, professore, di un estremo, cioè se estremo, continuasse estremo. Così, se venissimo messi estremo. Nell'angolo come l'Irlanda, ma dovrebbero passarci prima il Portogallo e la Spagna, sì, ma non cioè, se, e non capiterà secondo me, adesso mi torno. No, assolutamente. Mi faccio dei gesti scaramantici da solo, ma noi abbiamo un risparmio privato tale per cui tu, certo, dovresti obbligare le famiglie con una specie di patrimoniale a comprarsi il debito, però insomma alla fine... Quello che io voglio dire è sì. Che se gli analisti finanziari guardassero questi numeri, certamente non punterebbero contro il debito pubblico italiano, perché sono dei numeri che dovrebbero tenere lontano, appunto, solo che non li guardano. Beh, non farebbero gli analisti, dai. Continuano a guardare il rapporto tra debito pubblico e PIL, che è un rapporto relativamente significativo, sì. Ma non significativo in senso assoluto. Sono d'accordissimo con lei, è chiaro che in questo momento non puoi toccare il risparmio privato, ma sicuramente quella è una scialuppa di salvataggio che tu hai e nel caso peggiore potresti usarla. Dopodiché speriamo che questi analisti, che secondo me sono più speculatori che altro, si brucino le penne. Grazie ad Alberto Quadricurzio. Sì, grazie a lei, arrivederci. Allora, visto che insistete, ve lo faccio sentire, ma ripeto, nella vita si può cambiare idea. 26 giugno 2009, Berlusconi sulla crisi economica ormai alle spalle, aveva detto il 6 luglio, E poi subito dopo Giulio Tremonti, sempre in quell'anno, sul insomma, minimizzare sulla crisi. Tutte le organizzazioni internazionali che un giorno sì e un giorno no escono e dicono deficit, più deficit del 5%, meno consumi del 5%, crisi di qui, crisi di là, la crisi ci sarà per il 2010, la crisi si chiuderà nel 2001. Un disastro. Dovremmo veramente chiudere la bocca a tutti questi signori che parlano, non date, minacciate di non dare la vostra pubblicità a quei media che sono essi stessi fattore di crisi. Vuol dire che noi torniamo come eravamo nel 2005. Era così grave, così drammatico, 2006. Se fosse solo un dato di crescita, meno 2 vuol dire che torniamo come nel 2006, che non mi sembra fosse medioevo. Vabbè, dai, c'era un po' di ottimismo. Adesso la differenza con la Germania è ai massimi dal 99 e con buona pace del Presidente del Consiglio non è un problema di media, è che qui insomma, sono tutti i paesi europei, non Francia e Germania, sotto attacco. E il 2011, oggi abbiamo scoperto che cresceremo meno che nel 2010, lo dice la Commissione Europea. Allora, questa puntata tutta allegra, dai, qualcosa di allegro c'è stato, però insomma, la settimana è iniziata in maniera molto molto difficile, si chiude qui, non prima di sapere di cosa parlerà Giuseppe Cruciani con la zanzara, forse WikiLeaks? Dai. Sì, anche, naturalmente, bisogna dire però che queste rivelazioni di WikiLeaks per quello che riguarda l'Italia sono rivelate un po' deludenti. Insomma. Eravamo abituati a molto di più, diciamo che sì, non ci facciamo mancare nulla. Dai. Le storie dei party di Berlusconi erano molto più succulente, comunque insomma, evidentemente i diplomatici americani scrivono anche questi dispacci. Allora, tra pochi minuti la zanzara da Sebastiano Berisoni. Intanto un augurio di buona serata, ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Radio 24, la passione si sente.